La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Con l'articolo 71 si passa al procedimento legislativo in maniera specifica. Il procedimento legislativo riguarda come si approvano le leggi. L'approvazione ha esattamente tre fasi: l'iniziativa legislativa, l'esame e la votazione parlamentare e poi l'intervento del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, a cui segue la pubblicazione. Queste fasi sono disciplinate puntualmente dagli articoli 71, 72, 73 e 74. L'articolo 71 riguarda l'iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti a cui sia conferito da legge costituzionale. In pratica, ad oggi, oltre ai parlamentari e al governo, l'iniziativa legislativa spetta al CNEL e alle regioni, cioè i consigli regionali possono presentare iniziative legislative per leggi nazionali. Il secondo comma affida l'iniziativa legislativa anche al popolo. Principio generale dell'articolo 71 è quello della piena parità di tutte le iniziative, cioè i 5 titolari attuali di iniziativa possono presentare disegni e progetti di legge che hanno sempre la stessa forza, la stessa validità, la stessa parità formale. Cioè, teoricamente, in ossequio al pluralismo democratico, un'iniziativa di un singolo parlamentare ha la stessa dignità formale dell'iniziativa del governo. La differenza in pratica invece è profonda, perché nel sistema parlamentare basato sulla fiducia Parlamento-Governo, ovviamente il disegno di legge del governo ha molte più possibilità di essere approvato in quanto il governo è appoggiato dalla maggioranza parlamentare, cosa che invece non ha alle sue spalle un singolo deputato o un singolo senatore. In questo modello si pone quindi l'iniziativa popolare. Il popolo, per presentare un disegno di legge, deve raccogliere la firma di 50.000 elettori e un progetto redatto in articoli. E questo è uno degli istituti più evidenti di democrazia diretta, cioè della diretta possibilità per il popolo di interloquire nella formazione dell'atto fondamentale, della legge. Ovviamente i disegni di legge popolare avranno meno speranza di essere approvati, perché non sono appoggiati direttamente dalla maggioranza governativa. Tuttavia, un disegno di legge di iniziativa popolare è molto significativo perché fa indicare che un pezzo di popolo, quindi un pezzo di elettori, un pezzo di cittadinanza, ha un'esigenza legislativa particolare. Può essere interessante notare come proprio in queste settimane si sta discutendo in Parlamento di una delle leggi più controverse, che è quella sulla cittadinanza, il cosiddetto Ius Soli, e la cittadinanza, lo Ius Soli, nasce da un disegno di legge di iniziativa popolare, al quale poi si sono abbinati anche disegni di legge invece parlamentari. Per completezza d'esame dobbiamo ricordare che l'iniziativa legislativa popolare non è l'unico istituto di democrazia diretta previsto in Costituzione, perché abbiamo anche il referendum abrogativo, il referendum costituzionale nel procedimento di revisione e poi la petizione, articolo 50, di cui abbiamo già parlato.